Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà se ha bisogno di chiamare Superman? Che mondo sarà, fa l'effetto del motore che non va. Bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro al balloon, che oggi continua a guardare Gianni Rodari, perché Rodari è davvero una figura di umanista, cioè una persona che guarda tutto il mondo delle possibilità artistiche e comunicative per sviluppare il suo progetto, che comunque sempre per la pace e per la giustizia sociale, in particolare per i più piccoli. E allora in questa prospettiva possibile di Rodari andiamo a leggere la pagina di Rodari e il cinema, e lo facciamo con Ermanno Ottaviani, docente di storia all'Università di Catania, che appunto in questo primo excursus ci racconta degli esperimenti negli anni 50 del cinema comunista e delle sue lotte acerrime contro la questura di Stato. Quindi, dopo lo stacchetto musicale, sentiamo un passo dell'intervento del professor Ermanno Ottaviani, ricordando che è stato fatto questo intervento durante l'incontro a distanza nella primavera del lockdown dalla Mediateca Romana, una giornata in intera dedicata a Rodari, condotta e moderata da Vanessa Roghi. Però la parola, dopo lo stacchetto musicale, dunque a Ermanno Ottaviani. E il rapporto di Gianni Rodari con il cinema nel corso della sua vita è stato una parte importante della sua biografia intellettuale, e lo possiamo vedere secondo tre aspetti. Il primo è quello meno noto, cioè di autore di testi per due film, prodotti diciamo da società vicine al Partito Comunista. E il secondo aspetto è tutto quello che in parte è stato richiamato, il successo Unione Sovietica, quindi la trasposizione di sue opere letterarie in versioni cinematografiche. Il terzo aspetto è stato quello di Rodari, che ha scritto di cinema, e lo ha fatto in molte occasioni. Ha scritto di cinema, sia del cinema italiano in generale, e sì, è soprattutto del cinema per l'infanzia. Il ruolo di Rodari come autore di cinema è breve e concentrato nel tempo ed è limitato a due film documentari, anche se ci fu un incendio nel magazzino della società di produzione cinematografica, la Rinascita Film, del PC alla fine degli anni 50, che distrusse vari film, e quindi è possibile ma che abbia scritto i testi per altri dei film che sono andati perduti, che sono andati distrutti. Così come a quell'epoca non sempre gli autori dentro questo tipo di cinema firmavano i loro commenti sonori. Molto, no, Luigi Pintor, che rispondeva alle lettere delle lettrici di Vie Nuove, o altri autori lo facevano in forma anonima, e quindi è possibile che i suoi contributi siano stati più numerosi rispetto a questi due. Questi due film si collocano a distanza di un decennio l'uno dall'altro, e il primo, il più importante, è Modena, una città dell'Emilia Rossa, di uno dei più importanti autori del cinema italiano, come è stato Carlo Lizzani, e anche uno dei più impegnati nella cinematografia, come dire, del PC. Il Partito Comunista, infatti, in questi anni doveva contrastare, dopo il 47, dopo la cacciata delle sinistre dai governi della Repubblica Italiana, la propaganda governativa. E prima quella dei cinegiornali fino al 54, e poi dopo il 54 quella della RAI. E fu una battaglia senza esclusione di colpi, soprattutto da parte delle autorità, perché nel corso degli anni 50, con una scusa o con l'altra, moltissimi film vennero censurati, non fu dato il visto censura di registi, in un qualche modo, dell'area non solo comunista ma anche socialista. Uno dei più feroci censori di quella produzione fu ad esempio Oscar Luigi Scalfaro, che come sottosegretario alla Presidenza del Consiglio bocciò tutta una serie di film che non videro la luce. Il PC però decise non di fare un suo cinema E a un certo momento lo stesso Lizzani andò da Togliatti e disse: ma perché non facciamo dei nostri film? E Togliatti gli disse: no, ma che senso avrebbe una produzione targata Partito Comunista? Facciamo invece un'opera di egemonia, diciamo, se posso usare questa, dentro il cinema mainstream. Facciamo passare i nostri contenuti nel cinema. Però, appunto, ci fu un grande impegno nella produzione di film documentari che circolavano nelle case del popolo, nelle sezioni del PC, nelle sedi della CGIL. Modena, una città dell'Emilia Rossa, e fa parte di una coppia di film che realizzò Carlo Lizzani, tutti e due nel 1950, e andavano a parlare di questa città perché Modena era stata messa al centro degli attacchi della stampa di centrodestra per le vicende del cosiddetto Triangolo Rosso negli anni precedenti, cioè degli omicidi compiuti da ex partigiani contro appartenenti al partito, insomma, all'ultima fase del fascismo, insomma, che avevano combattuto nella guerra civile del 43-45, così come e soprattutto perché nel 1950 ci fu la strage degli operai delle Reggiane che stavano manifestando pacificamente per un'avvertenza contrattuale che avevano con i loro datori di lavoro e strage appunto compiuta dalla polizia del ministro dell'interno Scelba. E quindi Lizzani va e gira questi due film. Quello sulla strage di Modena gli fu tagliato per metà. Tutta la ricostruzione della strage fu tagliata dalla censura, in quel caso era Andreotti, non il censore, però era il sottosegretario alla presidenza del Consiglio che si occupava, diciamo, di questa materia, e quindi di quel film restano solo i funerali, in cui vediamo Togliatti, Di Vittorio e gli altri leader del Partito Comunista. È un film, tra l'altro, sono delle sequenze anche molto belle, molto interessanti da tanti punti di vista, e Modena, una città dell'Emilia Rossa che vide appunto Lizzani come autore del testo, Lizzani Rodari, e che invece voleva dimostrare che Modena non era il Messico d'Italia, come era definita dai giornali appunto e i cinegiornali di area governativa, ma invece era un'operosa città che stava con un'amministrazione di sinistra che cercava di migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei suoi cittadini. E quindi una tipica espressione del riformismo padano, come è stato chiamato. Tra l'altro, nel corso di questo film si vedono appunto gli impianti della Ferrari, si vedono gli impianti e tutta una serie di aspetti, e si ricorda la storia di Modena, gli grandi artisti, eccetera. La medaglia d'oro sul gonfalone di Modena è di monito a tutti i calunniatori di questa nobile città che oggi, retta dall'amministrazione democratica, smentisce con le sue mille pacifiche attività di ogni giorno menzogne e leggende di ogni genere. Modena, si è detto, ecco il Messico d'Italia. Ma non pare che abbiano l'aria di banditi messicani questi agricoltori, queste donne che affollano il mercato. Non si comprano tromboni alla Panciovilla, né si contrattano mitragliatrici alla maniera di Giuliano, nell'antico mercato bestiame, il più grande d'Italia, dove si incrociano i traffici secolari dei mercanti di bestiame dell'Emilia e della Romagna, e si realizzano scambi annuali di alcuni miliardi di lire. Nell'ultima parte di questo film si parla dell'azione a sostegno dell'infanzia dell'amministrazione modenese, e lì in un qualche modo Rodari si lascia un po' più andare nel suo commento, riesce a dire qualcosa di più originale. Non so se, anche se erano due brevi estratti, si notava innanzitutto il fatto che il modulo fosse né più né meno quello della settimana Incom, dei documentari, anche dal tono dello speaker era quello. E quindi il tono perentorio dello speaker e immagini invece estremamente rassicuranti, pacifiche, eccetera. Nella parte sui bambini, appunto, Rodari riesce a sbizzarrirsi un po' di più, pur nell'ambito appunto di un modulo molto rigido, come era quello di un certo stile cinegiornalistico a cavallo degli anni 40 e a cavallo degli anni 50, anche sul lavoro, sulle terre incolte che vengono restituite, un'opera di bonifica di paludi e di zone acquitrinose intorno a Modena, che l'amministrazione, insomma, tutta una parte in cui si valorizza questo aspetto e anche il lavoro operaio, la costruzione di nuove officine della nuova azienda del gas che liberava i suoi operai da un lavoro, si vedono le immagini di qualche anno prima, invece molto arretrato e soprattutto molto pericoloso. Nonostante il tono così tutto sommato pacifico di questo film, anche questo film subì parecchi colpi della censura. Nella documentazione della Presidenza del Consiglio, per dire qual era il carattere appunto strumentale di questi interventi teso a bloccare questo tipo di produzione, si chiedeva, ad esempio, che andavano tolte le parole «i braccianti senza terra, spinti dalla miseria, occupano le riserve di caccia, sotto i loro colpi vigorosi cadono i privilegi che sono di ostacolo alla produzione, in quanto costituiscono apologia di delitto punito dall'articolo 633 del Codice Penale». E poi le parole «sebbene privo dell'autonomia comunale, trattandosi di falsa affermazione, atta a turbare l'ordine pubblico». Ecco, questi erano i tipi di interventi del Ministero dell'Interno, o meglio della Commissione Censura, ma di fatto del Ministero dell'Interno di allora. L'altro film è un film del 62, a cui partecipa Gianni Rodari, ed è sicuramente da un punto di vista cinematografico meno interessante, è La Marcia della Pace, è un film di Glauco Pellegrini, un regista di film di genere, poi insegnante al Centro Sperimentale di Cinematografia per tanti anni, e che era stato uno degli autori di altri documentari del PC di quel periodo, e che appunto raccontava la prima Marcia per la Pace Perugia-Assisi, organizzata sul modello delle iniziative di Bertrand Russell da Capitini in Umbria, e cui hanno partecipato Italo Calvino, Piovene, Guttuso e tante altre personalità della cultura italiana dell'epoca. È un film molto breve, dura circa 12 minuti, e anche qui Rodari fatica, diciamo, a uscire da un modulo tutto sommato anche qui abbastanza rigido di racconto, e lo fa soprattutto appunto citando Nazim Hikmet e la sua poesia sulla bambina di Hiroshima nell'ultima parte appunto del film. Il film però, al di là del... anche qui è un commento molto accurato, diciamo più che retorico, però insomma bisogna ricordare che pochi giorni dopo la Marcia Perugia-Assisi ci fu la crisi dei missili a Cuba, quindi la possibilità di una guerra atomica tra le due superpotenze non era solo un fatto retorico, ma era un fatto reale. Mi sono io. Busso alla porta di tutte le scale, ma nessuno mi vede, perché i bambini morti nessuno riesce a vederli. Sono di Hiroshima e là sono morta tanti anni fa. Tanti anni passeranno. Ne avevo 7 allora. Anche adesso ne ho 7, perché i bambini morti non diventano grandi. Avevo dei lucidi capelli, il fuoco li ha strinati. Avevo dei begli occhi limpidi, il fuoco li ha fatti di vetro. Un pugno di cenere, quella sono io. Poi il vento ha disperso anche la cenere. Apritemi, vi prego, non per me, perché a me non occorre né il pane né il riso. Non chiedo neanche lo zucchero io. A un bambino bruciato come una foglia secca non serve. Per piacere mettete una firma. Per favore, uomini di tutta la terra, firmatevi, prego, perché il fuoco non bruci i bambini e possano sempre mangiare lo zucchero. Sulla terra, fuori nel mondo chissà dove, abbagliante di quel sole esploso in un istante. E dopo aver chiacchierato di Gianni Rodari e il grande schermo, rincontriamo Lia Finzi, pioniera allora negli anni 50 di Venezia, che ha vissuto intensamente l'intera vicenda del movimento di Carlo Pagliarini, che ci racconta il trauma della fine dell'arte quando venne imposto dallo stesso Partito Comunista. La fine dell'API è stata la scuola per il nostro ambiente laico, doveva essere il solo perno delle istanze educative e supporto delle famiglie, dei lavoratori. Per fare questa scelta a favore di una riforma della scuola, la scuola media unica, giustamente, che non doveva esserci più, doveva essere considerata la strategia su cui puntare tutto, cioè non più la scuola professionale e la scuola media, per divaricare i ceti sociali, i figli degli operai alla scuola professionale e gli altri alla scuola media, portò a vedere l'esperimento dei pionieri non marginale, ma addirittura come fonte di disturbo per quello che era un progetto più ampio per le trasformazioni del mondo giovanile italiano. Questo è stato anche l'errore del Partito Comunista, di avere valutata la battaglia, la lotta, la conquista anche poi della scuola media unica, barattata con il disturbo che poteva portare l'API in questo tipo di battaglia. Senza contare che i ragazzi non si educano solo a scuola e in famiglia, ma anche nel tempo libero. Ecco, io ricordo l'intervento di Mario Alicata, che concluse un incontro Assemblea Nazionale, dove dichiarò che l'API sarebbe stata sciolta. È stato un trauma, dico la verità, perché negli anni successivi allo scioglimento dell'API si cercò di proseguire con la pubblicazione del settimanale Il Pioniere, almeno come supplemento prima all'Unità, poi a Noi Donne, ma l'esaurirsi dell'associazione finì per portarlo a esaurimento anche Il Pioniere. Questa fine portò alla perdita di collaboratori straordinari come Gianni Rodari, Dina Rinaldi, Marcello Argilli, che avevano prodotto uno strumento di originalità per la creatività dei ragazzi, incredibile. A Venezia abbiamo fatto qualche esperienza pilota, che va ricordata perché è stata importante. E a Venezia c'era il Cineclub Pasinetti, su Ca' Giustiniano all'ultimo piano, bisognava essere abbonati, con film della Biennale, prevalentemente alla Biennale di Cinema di Venezia. E noi dell'API pensammo che sarebbe stato opportuno fare una cineclub per ragazzi. E parlammo con i dirigenti del Cineclub Pasinetti, che poi erano ottimi amici e compagni, e capirono che era importante. E ogni domenica pomeriggio un gruppo di educatori, in genere insegnanti, c'era mia sorella, io, Berto San Nicolò, la Gigetta Fagnin qualche volta, solo noi educatori con i ragazzi. I genitori potevano accompagnarli, andarsene a spasso e poi tornare a prenderli. E lì con i ragazzi guardavamo il film, discutavamo poi, facevamo un giornale, facevamo delle recite per ritornare su quello che avevamo visto. E dico la verità, è stata un'esperienza che ci ha aiutato molto anche poi come insegnanti nella scuola, così come lui, poi io a scuola ho sempre fatto le piccole Olimpiadi azzurre con i miei scolari. Perché facevo matematica, misuravamo il percorso per le corse, per il salto in alto, e facevo le piccole olimpiadi azzurre che avevo imparato dai pionieri nella scuola, la portavamo. E avevamo in questo ambiente del cinema i pionieri delle varie sezioni e i ragazzi dei quartieri che non erano iscritti. Molti monelli che parlavano forte durante il film e avevano capito che invece dovevano comportarsi educatamente. È stata un'esperienza positiva, come è stata un'esperienza pilota quella del giornale dei genitori di Ada Gobetti. Torniamo a Lia Finzi, questa ormai 93enne, ma allora giovanissima pioniera veneta di Venezia, che ha vissuto integralmente, direi, l'esperienza del pioniere e che ci parla anche di un aspetto molto importante, i famosi treni della felicità, quando nel dopoguerra, in particolare le donne del Partito Comunista e le pioniere, organizzarono questi treni che portavano dei bambini del sud che davvero rischiavano di morire di fame e di freddo, non in maniera metaforica ma concreta, li facevano ospitare nelle famiglie del nord, dei compagni dell'Emilia Romagna, del Veneto, della Lombardia, affinché potessero sopravvivere, in famiglie di contadini in particolare, per poi tornare alle famiglie quando fosse passata la grande crisi. La parola a Lia Finzi. Dell'Ardone, sui viaggi dei ragazzi, il treno dei bambini. Il protagonista del libro, dove si legge che quanto dice Maddalena, che è una delle donne che ha lavorato per portare i bambini del sud verso l'Emilia Romagna, dove erano accolti, e dice questa Maddalena: era più facile una volta, c'era il partito. C'erano le compagne e i compagni del partito. Oggi chi vuole fare qualcosa di buono lo deve fare da solo, per conto proprio. Io ricordo cosa scrisse Teresa Nocce, dirigente dell'UDI, una delle promotrici di quell'opera di reciproco sostegno, di aiutare i bambini del meridione e portarli in un luogo dove perlomeno c'era da mangiare e da scaldarsi. I bambini affamati erano tanti, dice, scrive Teresa Nocce. Io ho conosciuto invece nei campeggi ragazzi più fortunati. Oltre aver certamente aiutato i ragazzi del Polesine quando c'è stata l'alluvione, portando 10 famiglie al convito Biancotto e tenere poi 2 ragazzini a finire l'anno scolastico con i nostri ragazzi. Ma nei campeggi ho trovato un'elite dei giovani che poi diventarono dirigenti politici. A Sestola, a San Marcello Pistoiese, a Castelluccio Terme, io ho avuto Mussi Fabio, D'Alema Massimo, Paglietta Gaspara, Sereni Marina, Sereni Clara, cioè i dirigenti del partito ce li mandavano al campeggio. E quindi, come nelle sezioni a Venezia o al Cineclub, avevamo i figli dei compagni intellettuali che mandavano i figli alle nostre iniziative, ma avevamo anche gli scugnizzi, direbbero a Napoli, ma qui noi avevamo i monelli proprio che venivano a Lappi, lo stesso nei campeggi. Avevamo i figli dell'elite del Partito Comunista e avevamo anche il figlio dei braccianti. Felicità, non sei in città, viva la campagna, viva la campagna, la civiltà è bella ma, viva la campagna, felicità, un arcobaleno sereno, l'odore del fieno, il canto corale di mille cicale, un bianco puledro, il fiore di cedro, le stelle più grandi nel ciel, ma... Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata, ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.